America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24, sempre su Memory Lane, sul viale dei ricordi in questa chiusura d'anno. Oggi vorrei riproporvi una tematica che è emersa in America all'inizio dell'anno, durante il discorso sullo Stato dell'Unione di Barack Obama, e poi in qualche modo ha avuto un suo contrappunto in Italia. La questione mi ha interessato molto, riguardava il rapporto fra il potere esecutivo e la Corte Costituzionale. Che cosa è successo? Intanto vorrei farvi ascoltare le parole del presidente Barack Obama, parole un po' di fuoco, inusuali, durante il discorso sullo Stato dell'Unione, in cui attacca la Corte Suprema esprimendo un parere negativo sul giudizio della Corte su decisioni, su certi finanziamenti che secondo la Corte potevano avvenire in America e che forse avrebbero potuto influire un po' il mondo politico. Sentiamo il presidente. America 24, 28 gennaio. With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court reversed a century of law that I believe will open the floodgates. Un attacco diretto alla Corte Suprema, uno dei passaggi più delicati del presidente Obama. Si è lamentato di una decisione della settimana scorsa della Corte Suprema che autorizza le aziende americane a partecipare ai finanziamenti e alle elezioni in modo molto maggiore di quanto non potessero fare prima. Un intervento, questo, del presidente che è stato criticato da alcune reazioni. I'm not sure that it was appropriate for the President of the United States. Non mi è sembrato appropriato, ha detto Juan Williams, di provenienza democratica, un commentatore tuttavia della Fox, una rete della destra americana. Ebbene, dice Williams, non mi è sembrato appropriato che il presidente attaccasse la Corte Suprema avendo i giudici seduti a pochi metri davanti a lui. Secondo me è stata, ha detto Williams, una violazione dell'etica istituzionale. Per il resto, commenti in generale positivi su CBS, su ABC, su NBC, su CNN, e tutti hanno apprezzato il discorso del presidente, soprattutto il momento in cui, con tono contrito, ha ammesso che degli errori sono stati commessi e forse alcuni dei passi indietro che ha subito la sua amministrazione erano anche meritati. Ecco, avete risentito questo scorcio di puntata all'inizio dell'anno e questa provocazione di Barack Obama. La mia idea qual è stata? In America esiste comunque, nel contesto della Corte Costituzionale, l'opinione dissenziente. In Italia invece no. E proprio in quel periodo, in quelle settimane, in Italia, forse non lo ricorderete, ma ci fu una grossa polemica tra la nostra Corte Costituzionale e l'esecutivo, soprattutto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, intervenne poi anche il Presidente della Repubblica, insomma ci fu un po' di tensione e io decisi di lanciare una proposta che resta sempre aperta perché poi ovviamente ancora non se n'è fatto niente, ma è stata sottoscritta, come sentirete, da grandi giuristi, esperti di parti politiche diverse e da uno stesso giudice della Corte Costituzionale. La proposta era e resta quella di introdurre nel nostro sistema giuridico e nella nostra Corte Costituzionale l'opinione dissenziente. Allora, per ricostruire un po' quel che vi ho detto, partiamo da qui. America 24, 29 gennaio. Chiediamo al professor Giovanni Sartori, grande costituzionalista, grande esperto dell'America, ha insegnato negli Stati Uniti per molti anni, cosa pensa di questa vicenda. Reagisco un po' con sorpresa perché non è stato frequente, è successo, ma insomma è fuori regola. Ci sarei andato anch'io, però pesante, perché la faccenda del finanziamento dei politici insomma è un fattore di corruzione devastante. Abbiamo con noi anche Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano. Professore, in Italia ci fu una situazione analoga a quella che abbiamo visto nei giorni scorsi a Washington. Certo, il contesto giuridico è completamente diverso, le ragioni sono diverse, il presidente Berlusconi aveva un interesse diretto nel criticare una sentenza della Corte Costituzionale, però ci furono critiche, la polarizzazione politica nei due paesi è simile oggi, eppure le reazioni sono state molto diverse. Perché secondo lei? Ma in Italia intanto diciamo che sono state molto forti, hanno generato quasi una una levata di scudi, uno scandalo che rende questo tipo di critiche anche molto dirette, proprio attacchi quasi personali ai giudici, particolarmente, come dire, inviso alla opinione pubblica colta. Probabilmente negli Stati Uniti la vicenda ha avuto un'eco diversa, perché c'è una tradizione, diciamo, di contrasti anche storici tra il potere esecutivo, legislativo e la Corte Suprema, che rende in qualche misura quasi più normale il fatto che l'esecutivo, soprattutto il Presidente degli Stati Uniti, possa esprimersi in termini molto duri anche nei confronti di un'istituzione come la Corte Suprema. Cosa potremmo fare in Italia per ritrovare, diciamo, quella dialettica anche in un contesto di polarizzazione, ma una dialettica che comunque eviti queste rotture così forti? Ma dunque, guardi, negli Stati Uniti la Corte Suprema conosce la pratica della cosiddetta dissenting opinion, cioè il giudice che non condivide l'opinione dei suoi colleghi che sono in maggioranza lo può dire, lo può scrivere, lo può far conoscere all'opinione pubblica interessata. In Italia, secondo la tradizione europea, invece, la decisione è sempre vista come decisione del collegio, della Corte tutta intera, anche quando magari all'interno è maturata attraverso un contrasto durissimo e viene assunta con una maggioranza, faccio per dire, di 8-7. Se anche da noi ci fosse l'istituto della dissenting opinion, questo consentirebbe di razionalizzare le ragioni del contrasto, facendo conoscere anche le ragioni di chi è rimasto in minoranza, mostrando che in realtà poi le interpretazioni della Costituzione alla base di certe decisioni non sono monolitiche, non sono solo quelle che la Corte nella sua maggioranza ha assunto. Professor Sartori, lei crede che la dissenting opinion possa essere introdotta anche in Italia? Cosa ne pensa? Il principio è buono ed è sicuramente una tecnica intelligente e da imitare o da adottare quando possibile. In questo momento di grave tensione generalizzata, di grave conflitto, di potenziale conflitti continui tra tutti gli organi dello Stato, sarebbe un motivo di più di frattura anche all'interno della Corte. E per chiudere, infine, l'opinione di Sabino Cassese, giudice della Corte Costituzionale Italiana. America 24, 21 settembre. In un ordinamento come quello americano, direi che è quasi fisiologico. Basti ricordare la grande contrapposizione che ci fu tra Franklin Delano Roosevelt e la Corte degli anni 30. E perché l'ordinamento americano è un ordinamento basato sui checks and balances, come dicono loro, cioè su una forte divisione dei poteri, con dei poteri che si contrappongono e si controllano reciprocamente. E poi io credo che sia, come dire, legittimo commentare positivamente o negativamente decisioni che naturalmente poi debbono essere rispettate, come Obama rispetta la decisione che è stata presa dalla Corte Suprema americana in materia di finanziamento delle campagne elettorali. Quindi forse da noi c'è stata una reazione un po' troppo forte quando qualcuno ha detto che magari c'era un attentato alla libertà della Corte, quando ci sono state delle reazioni politiche? Ma io preferirei non esprimermi su questo, perché stiamo parlando di questioni di misura. Dal punto di vista giuridico è chiaro che ogni potere pubblico, ivi compreso il potere delle corti e del giudice, è sottoposto a un giudizio aperto di qualunque altro potere pubblico e di qualunque persona, perché c'è libertà d'opinione, insomma. Quindi da questo punto di vista io direi che in principio non può che esserci questo criterio. Poi ci possono essere diversità di stile, diciamo, di misura, ma il punto essenziale è che in un ordinamento basato sulla divisione dei poteri e sul principio democratico, nonché sulla regola della libertà di opinione, le opinioni di tutti e i comportamenti di tutti, debbono poter essere sottoposti a discussione. Ecco, io in quell'occasione intervistai un paio di costituzionalisti italiani, uno è il professor Giovanni Sartori e l'altro Nicolò Zanon. Io li interpellai proponendo l'introduzione di una metodologia americana, cioè quella dell'opinione dissenziente, la dissenting opinion, che consente di sapere che cosa pensava la minoranza. Cosa ne pensa? L'argomento classico degli americani è questo: l'opinione dissenziente di oggi è l'opinione di maggioranza di domani. Vuol dire che l'opinione dissenziente è come un seme che germoglierà e che poi domani produrrà un fiore e dei frutti. Da questo punto di vista l'opinione dissenziente è un bene, introduce una maggiore visibilità, permette alle persone di comprendere perché la soluzione A è diversa dalla soluzione B e quali sono gli argomenti a favore della soluzione A e quelli a favore della soluzione B. Al limite l'opinione dissenziente potrebbe essere scritta anche insieme dalla maggioranza e dalla minoranza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, ci avviciniamo ai vertici della hit parade. Ieri abbiamo visto di Kanye West la numero 3, la numero 2 secondo me è questa canzone dei The National, gruppo di Brooklyn, dall'album High Violet, Sorrow. It's only my half a heart alone. On the water, cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.